Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. E sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser. Eccoci qua, sono altissima forse, boh, chissà. Ti sento anch'io molto alta, ma almeno non picci, voce bassa. Quindi probabilmente sono le cuffie. Ci sta. Siamo in una regia del Wombat lievemente meno calda del solito, quindi il che ci ha permesso di poter essere qui con voi, perché veramente se no non ce la collavamo. Effettivamente era una roba veramente improponibile lunedì scorso, però vabbè, ci siamo in ogni caso. Ci siamo e abbiamo scelto di parlare di qualcosa di rinfrescante in qualche modo, perché parliamo di fantascienza e abissi. Esatto, parliamo di abissi, puntata che in realtà diciamo che qualche accenno l'abbiamo già fatto in altre puntate. Sì, certo. Beh, ad esempio, mi sono andata a rivedere, a riascoltare una puntata di qualche, forse anche anno fa, non mi ricordo, comunque dedicata ai nostri eroi e c'era, parlavamo di un libro di Chena Mieville che tra i protagonisti aveva un enorme kraken che aveva a che fare con la fine del mondo e quant'altro, quindi in realtà era, ci ha dato il là per parlare un po' del kraken, del calamaro gigante eccetera. Però perdonami, no, sto prendendo il pad, avevo scritto un botto di roba aggiunto, non te ti appare qualcosa scritto da me? Sì, allora è un problema mio di connessione, ok, mi ha preso un colpo. Mi appaiono robe viola in fondo. E in cima niente? No. Vabbè, le ore di lavoro buttate no. Al vento, anzi alle onde, vabbè non importa. Vabbè, dopo se vuoi mettiamo un pezzo musicale e ci andiamo a riguardare la cronologia, così magari, chissà. Comunque sì, dicevamo, qualcosa insomma abbiamo già avuto la scusa per raccontarvelo. Siamo effettivamente piuttosto affascinate da quello che riguarda le profondità degli abissi. Perché? Essenzialmente perché questo è un argomento che affascina non solo noi, ma direi un po' tutta l'umanità, perché effettivamente sappiamo che la Terra di fatto è ricoperta d'acqua e la maggior parte della superficie in realtà del pianeta è di base ricoperto d'acqua, e sappiamo anche che gli abissi noi non riusciamo a approfondirli, non riusciamo a scandagliarli, non riusciamo ad andare sotto più di un tot. Anche ora negli ultimi anni sono stati, insomma, si sta investendo parecchio per ragioni fra l'altro tutt'altro certo. che carine, ma per questioni tendenzialmente predatorie, ma insomma si sta investendo sulle tecnologie di droni e robot sottomarini che riescano ad andare giù in modo da permetterci di capire cosa c'è lì sotto. Fatto sta che attualmente non è un'affermazione così azzardata dire che non sappiamo veramente poco di cosa c'è sotto. Esatto, continuiamo a sapere poco, infatti compaiono, no, specie, animali, pesci che non avevo mai visto tutt'oggi. No, e quindi questa cosa vi potete immaginare che chiaramente dà adito a mille speculazioni, cioè l'essere umani da praticamente dall'inizio dell'umanità si chiede ma cosa c'è là sotto? Cioè, così come ci chiediamo cosa c'è nello spazio, cosa c'è nella parte di esistente che non riusciamo a vedere, non riusciamo a analizzare, e chiaramente ci chiediamo anche cosa c'è lì sotto, negli oceani, in fondo agli abissi. E quindi ci immaginiamo e ci diamo delle risposte generalmente sbagliate o comunque immaginarie, generalmente molto, molto particolari. Ecco, lo vedremo. Sono state, insomma, c'è un enorme fiorire di teorie. Abbiamo inventato mondi e animali fantastici, la maggior parte dei quali ci siamo resi conto che poi in fondo non esistevano effettivamente. Abbiamo dovuto rivedere le nostre teorie varie volte, ma effettivamente qualcosina l'abbiamo scoperto, e più che altro l'abbiamo scoperto perché ogni tanto qualche animale viene, fa capolino e qualcosa emerge. Diciamo che tutto quello che sappiamo delle profondità degli abissi lo sappiamo perché emerge, che sia una terra o che sia un animale dipende da cioè riusciamo a capirlo soltanto perché viene da noi, noi non riusciamo ad andare da loro. Quindi perché vi stiamo dicendo tutte queste cose? Perché la fantascienza, il mondo della fantasia, del fantasy e quant'altro si è ovviamente occupato moltissimo degli abissi e ci ha fantasticato e ha inventato varie robe. Non ultima, vi buttiamo là questa suggestione di... l'hai trovato? Mm-hmm. Alcune cose sì, quella che avevo scritto all'inizio l'ho trovata. Bene. Vi buttiamo lì questa suggestione buffa che non vi faremo sentire, ma potete andare a ascoltare da sole. Il bloop, che è questo suono che è stato registrato da un ente statunitense che si occupa di appunto di registrare i rumori che provengono dal fondo degli oceani in quanto riescono, e a un certo punto captano questo suono con una frequenza bassissima, veramente veramente veramente bassa. Si trova sia il suono registrato sia lo spettrogramma, quindi potete vedere analizzare abbastanza bene le frequenze. È una frequenza bassissima, non regolare, quindi a un certo punto si fanno varie domande, capiscono che non può essere un macchinario perché insomma ha anche una frequenza temporale molto cioè casuale tendenzialmente, quindi non è un macchinario, capiscono che non è di fattura umana, insomma eliminano tutta una serie di ipotesi, decidono che è un animale, però un animale, nessun animale conosciuto è in grado di emettere un suono con una così bassa frequenza, quindi iniziano le ipotesi, le fantasie più enormi, e anche gli scienziati iniziano a dare adito a delle speculazioni, dicono sì, sicuramente è un animale che però deve essere, siccome questo suono veniva registrato a 5.000 km di distanza, quindi diciamo ok, una roba, un animale che è in grado di produrre un suono di questo tipo con una frequenza così bassa deve essere enorme, deve essere più grande di tutti gli animali che abbiamo mai potuto immaginare, e quindi capirai, iniziano le storie. Solo adesso, mi sa nel 2012, hanno penso tolto ogni dubbio che no, non era nessun animale, ma pare fosse... ancora non sono sicurissimi per bene del dettaglio, ma rumori di sfregamento o di scioglimento di ghiacci, cioè ghiacci che si sciolgono, si scontrano anche, e che fanno questo rumore. Ma certo, infatti quando si sente bene, no? Tipo lo scioglimento dei ghiacciai, dei grandi ghiacciai, tipo il Perito Moreno in Argentina, cioè sono quei video in cui si sente i suoni, e sono dei suoni, dici, ma che roba è? E probabilmente se tu lo registri, esatto, molto molto in basso, esatto, boh, senti quel tipo di frequenza. Abissi che non conosciamo, quindi che potrebbero ospitare non solo creature strane e incredibili, ma anche civiltà chiaramente a noi sconosciute, che non vogliono o non possono entrare in contatto con noi. Ci sono tante speculazioni anche poi nella cultura in generale, l'esistenza o meno delle sirene, e per questo tema vi rimanderei a una puntata a cui ho partecipato di Lezioni Universali di esistenza, in cui abbiamo parlato proprio delle sirene. Io sono un grande fautore dell'esistenza delle, certo, sirene, quindi ne parleremo anche dopo, c'è un po' di accenni. Esatto, esatto, però ancora che qui, insomma, tutta la mia disquisizione la terrò fuori dalla discussione di stasera. Iniziamo con il pezzo d'apertura e poi parliamo appunto, iniziamo a parlare seriamente di fantascienza e abissi, partendo un po' dalle grandi pietre miliari e da un po' introducendo un po' i grandi contenuti, e poi andremo un po' nella specifica, alla fine parliamo un po' di film e filmografia interessanti. Quindi restate con noi alle porte di Tannhäuser, parliamo di fantascienza e abissi. Farò un viaggio molto lungo, ma senza lasciare... Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi, gli ultimi ritocchi alla capsula di vetro dentro, la sua macchina del tempo, nuova scienza degli studi storici, l'avvio delle turbine alzò una nube di fogli sparsi e libri, generò un tunnel di vortici e figi di antichi miti, lui deriso dalle accademie, dal loro via vai di dottor Astri, belleva le teorie sul tempo di Einstein e altri, dopo le teorie su cronosfere, stringhe, quanti, dimensioni parallele, buchi neri, ingerenze di altri campi, la sua teoria andava oltre ogni corpo, ogni uomo, quelle che per altri erano congetture, teorie pattume o solo calcoli, il contatore di ore e ore, le 9 del 4 gennaio, viaggio sul vettore in quarzo, rame, acciaio, scomparve in un attimo, poi fermo col cuore in mano, quello che vide sfidò ogni linea esplausibile all'intelletto umano, è giudicato come ciarlatano, visionario, mago, umiliato dei più dequalificato dallo stato di scienziato, lo avevo urlato chiaro davanti ai dotti senza paura, avrebbe portato i loro occhi e prove forti di una civiltà futura, e ora insonni avevano portato consigli nella notte buia, aveva riempito clicchi, sviluppato una nuova curvatura, un nuovo modo per guardare al tempo, somma diretta, saetta sull'onda, colonna non più retta, è come procedura, azione olelica, la mente affetta dall'idea perfetta, pronta a spostarsi sull'onda elettromagnetica, ne aveva saldato ogni componente con perizia ascetica, individuato il propellente in un reagente di acqua fredda, viaggiava col tempo nel pugno, sfidava l'oblio, verso il 31° secolo senza permesso di Dio, un rumore acuto riempì gli spazi in fila, dopo l'avvio, in tre istanti sparì dall'anno 2000 con un balenio. Prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e sfida Cronos, e quale modo, e quale modo, sarà ancora, e prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e sfida Cronos, e quale modo, e quale modo. Parlando di un vero viaggio. Quando l'orizzonte si fece nitido, aprì gli occhi incredulo, la pressione dell'acqua degli abissi premeva sopra vetro tremulo. Ora se tutto il processo aveva avuto un seguito era passato un secolo, ma quello che vide fu un mondo sommerso in uno scenario epico. Resti di strade, case, chiese, ruderi, grattacieli, sommersi dalle acque attraversate da branchi di pesci, montagne o colline trasformate in dorsali sottomarine, cimiteri di ossa umane incastrate nelle barriere coralline. Nessuna traccia umana sulla piana dei continenti subacquei, solo ombre di squali bianchi, calamari e lotte fra grandi giganti. Nel buio luce poca, solo ombre fra i tanti esseri acquatici, solo qualche luce fioca proveniva dalla bocca dei certi cetacei. Solo allora puntando i fari capì che avvenne tra terre e mari, i secondi si erano ingoiati i primi come nell'Olocene, dopo lo scioglimento dei vari ghiacci polari, gli uomini sopravvissuti si erano adattati a vivere dentro alle balene. Avevano squame, scaglie sparse sulla superficie del corpo, alcuni avevano arti come chele, altri tentacoli simili al polpo, denti come rasoi, irti da culi, carapaci impenetrabili, alcuni mutavano colore, altri mettevano lampi ed archi voltaici, sottomessi ma giù i cetacei muovevano guerri vicini, nuotavano in ranghi stretti, branchi immensi negli abissi infiniti. Uno di questi, un punto lo vide, scoccò un dardo in corallo che viaggiò rapido, conficcandosi nello sguardo dello scafo, inclinando. L'acqua inondò l'abitacolo, il braccio spinse la leva, inclinandola al massimo. In un lampo si ritrovò sano e salvo nel laboratorio sotterraneo. Si presentò al cospetto degli scettici, completamente fradicio, mostrando a riprova del viaggio lo strano strale, materiale organico. Osservarono incredulo il manufatto, il volto sconvolto dello scienziato pazzo, il corpo magico, lo sguardo torbido, come in seguito a un attacco di panico. Esausto chi chiese come fosse il futuro, rispose solenne: il futuro non è per niente diverso dal nostro presente. E prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e sfida Cronos, e quale modo, e quale modo, sarà ancora. E prese il volo, e vide il vuoto, e l'uomo solo, e sfida Cronos, e quale modo, e quale modo. Sto parlando di un vero viaggio nel tempo. Quando arriviamo sulla soglia dei 200 metri, osserviamo che la luce del sole non riesce più a penetrare e con essa sembra che anche le forme di vita scompaiano. Questa impressione però è solo un'ingannevole apparenza, perché intorno ai 400 metri ci imbattiamo in creature che vivono nel buio più assoluto e sono sospese così nel nulla. Immergendoci ancora più in basso, oltre i 1000 metri di profondità, possiamo incontrare un picnogonide, una sorta di ragno marino, composto però di chele come i granchi, che si ciba delle particelle provenienti dagli strati superiori del mare. Le estreme profondità marine sono abitate anche da creature chiamate sorrigomeridi, pesci lunghi e stretti, fermi in maniera verticale, in attesa che gli passi vicino una preda, oppure il cosiddetto calamaro vampiro, in grado di utilizzare le proprie bioluminescenze per attirare e stordire le proprie prede. La caratteristica comune di questi abitanti degli abissi, di cui abbiamo fatto solo qualche esempio, è la quasi assoluta immobilità. Essi infatti, potendosi nutrire con molta difficoltà, sono abituati a dosare le forze e a non sprecare le energie per inutili movimenti. Un po' come noi da Ghost. Sì, mi sento un pesce remo. Cioè, un po' come noi in regia, che quando fa caldo ci muoviamo pochissimo. Facciamo anche dei movimenti sul mixer molto dosati. Molto sì. Lenti. Non sprechiamo. Sì, questa era una descrizione che abbiamo trovato, che provava un po' a darci un'idea di quello che si trova almeno fino a qualche centinaia di metri sotto, perché poi davvero non sappiamo cosa c'è. Però un po' qualcosa ce lo possiamo immaginare, perché sicuramente questa assenza di luce la diamo per scontata, sicuramente una densità molto molto molto più alta rispetto a quella che abbiamo in superficie. Quindi le creature marine effettivamente che stanno negli abissi hanno delle caratteristiche fisiologiche che un po' ci possiamo immaginare. Per esempio, molte sono cieche, non hanno proprio gli occhi, sì, perché non ne hanno bisogno. Oppure hanno una mole tale che può resistere a quella pressione. Hanno anche una gestione della chimica interna loro. Le luci, no? Quelli che fanno le luci. Esatto, tutta una serie di cose, insomma. E quindi qualcosina si sa, ma il grosso ce lo dobbiamo un po' immaginare. Tipo anche la trasparenza spesso, no? Esatto. Dei pesci, anche quella è una roba incredibile. Sì. E soprattutto come cavolo fanno a resistere alla pressione che c'è là in fondo. E di cosa si nutrono? In realtà c'è molta più vita di quello che abbiamo scoperto nel tempo, c'è molta più vita di quello che crediamo. Sì. Microvita. Ma ci sono un sacco di questo, lo sappiamo, di virus, per esempio. Per esempio. Di batteri, di tra l'altro di anche virus che in superficie sono debellati, cioè non esistono più, quindi anche lì. Chiaramente se andassimo e riuscissimo ad arrivare nel fondo degli abissi, ritireremo su con noi probabilmente dei virus, dei microbi, delle creature, diciamo, preistoriche o comunque di milioni di anni fa, che sono rimaste lì, che in superficie magari sono scomparse o si sono adattate, si sono evolute in certe maniere, e che giù invece sono rimaste così. L'evoluzione in generale delle specie viventi si è evoluta in una maniera, si è progredita in una maniera diversa rispetto alla superficie. Esattamente. Un primo punto, secondo me, che potremmo mettere in gioco è questo, che la fantascienza o, diciamo, similare, comunque possiamo definire la fantascienza, soprattutto nella filmografia, si è immaginata, fra le varie cose, la non evoluzione, cioè l'esistenza ancora del megalodonte, quindi il grandissimo filone degli squali e a loro simili. Ci sono miliardi di film fino a che non sono usciti e entrati anche dei tornadi, no? Sì, esatto. Però non abbiamo parlato di Sharknado non è... E dei suoi sequel non ne abbiamo parlato approfonditamente, ne parleremo. Quindi, uno dei primi temi sono i grandi animali che stanno in fondo, che però vengono dal passato e non dal futuro. Esatto. Quindi gli animali ci sono, diciamo che ci si immagina un sacco di abitanti là sotto di base e ora non andiamo in ordine, andiamo un po' in ordine sparso, diciamo, però chiaramente uno dei primi delle prime opere che ci vengono in mente è ovviamente Verne con 20.000 leghe sotto i mari. È pubblicato in due parti tra il 1869 e il 1870 su delle riviste, perché come sappiamo spesso, come abbiamo detto spesso, era il luogo in cui si pubblicava la fantascienza. E 20.000 leghe sotto i mari, famosissimo, segue le avventure di queste persone a bordo del sottomarino Nautilus, celeberrimo, il capitano Nemo, costruito da questo capitano Nemo, sì, che è un personaggio tutto sommato piuttosto enigmatico, affascinante, anche un po' inquietante, che non sappiamo bene definire. Un po' tutto il romanzo ruota intorno anche alla sua figura. E da cosa parte? Parte da questo misterioso mostro marino. Ricordiamoci, siamo intorno appunto alla metà la seconda metà dell'Ottocento, e segue questo misterioso mostro marino che affonda le navi che incontra lungo il suo percorso. Qui iniziamo a dirlo ora, lo ritroveremo spesso nell'Ottocento, ma anche prima, ma insomma nell'Ottocento si dà conto di diversi di questi avvistamenti e anche di questi incidenti, sì, chiamiamoli così. Capita spesso, viene riportato spesso di navi attaccate da mostri giganteschi, generalmente inspiegabili, a volte opinabili, cioè, potrebbero essere abbastanza racconti abbastanza così fantastici, altre volte invece più realistici. Fatto sta che diventa un po' questo fatto di cronaca che influenza poi di fondo anche la letteratura, tra cui chiaramente Verne. E quindi diciamo c'è questo grande incidente, questo mostro marino che affonda non una ma varie navi, e quindi si decide di prendere un po' le contromisure e provare a catturare questo mostro. Quindi si parla di, non se, cioè, ci sono i superstiti, dicono dei riflessi fluorescenti, una massa capace di muoversi a velocità prodigiosa, non si capisce bene se è una balena, se è un che cos'è. E quindi parte questa spedizione che a un certo punto incontra, dopo varie peripezie, si scontra e si incontra con questa, quello che poi capisce essere non un'isola come pensava all'inizio, ma è questo enorme sottomarino che è il Nautilus, per l'appunto. E i due equipaggi si incontrano, finiscono insieme e vanno avanti nella avventura per esplorare gli abissi. E lì c'è questo tipico romanzo alla Verne, dove è una specie di grande galleria delle meraviglie, dove il Nautilus incontra mostri incredibili, creature fantastiche, e chiaramente si dà fondo a tutto il ventaglio dell'immaginario che gli esseri umani pensano ci sia là sotto. Sì, anche perché sono questioni ancestrali, cioè i marinai da sempre vedono creature incredibili, quindi non è fantascienza, perché la fantascienza, abbiamo detto tante volte, appunto inizia, possiamo dire, insomma, nell'Ottocento, un po' prima, c'è un po' di albori, però già nell'antichità si parlava delle sirene, no? Quindi, per esempio, Ulisse incontra le sirene, che chi erano, che cosa rappresentavano. Quantomeno rappresentavano qualcosa che i marinai avevano visto, e i racconti che trasportavano. Poi ai marinai piaceva tanto le leggende, raccontare cose. Infatti tutte le cartine, se andate a vedere tutte le antiche cartine, hanno da qualche parte c'è un mostro che esce dall'acqua, no? Nei grandi oceani. È vero. Ma anche perché io penso che ora non sono assolutamente una marinaia, però mi un po' ipotizzo che sia anche un'esperienza al limite del mistico, nel senso che te ne stai spesso in solitudine o comunque con un equipaggio per tanto tempo, mesi, pensa prima per andare in America, esatto, mesi in mezzo al niente, perché comunque chiunque di noi ha fatto un viaggio anche di poche ore in mezzo al mare sa quanto è anche strana, volendo, per noi questa esperienza, no? E ti senti un po' in balia di tutto, può arrivare di tutto, e quindi gli esseri umani secondo me a un certo punto sbarellano, cioè ci sta che inizi anche un attimo a a romanticizzare, a vedere, a usare anche l'immaginazione, la fantasia. Sì. E fin dall'antichità l'uomo si immagina delle civiltà in fondo al mare, o che nascono lì o qualcosa che cade, no? Magari un'isola che sprofonda, e questo è il grande esempio di Atlantide. Sì, allora, perché noi fondamentalmente ci sono un po' due, abbiamo diviso un po' in due filoni il cosa c'è sotto, cioè effettivamente l'umanità si è un po' divisa in due, un po' chi ha immaginato territori sotto e quindi ha iniziato a parlare, ma magari sotto c'è un mondo, cioè ci sono delle terre, delle civiltà, degli altri esseri umani, di altre specie umane che noi non possiamo capire, non conosciamo, oppure ci sono state e poi sono sprofondate, oppure iniziano a parlare di animali, sostanzialmente di creature, quindi ci sono un po' questi due mondi che vengono raccontati e che troviamo nei racconti di fantascienza e di fantasia quando si parla di abissi. Prima parlavamo del Nautilus e appunto di questi animali che Vern immagina lungo il suo percorso, invece quando si parla di città o comunque di territori che si inabissano, sicuramente sì, Atlantide è uno degli esempi che ci viene in mente per primo. Ed è fra l'altro uno di quei miti che io sono un po' dati per scontati, nel senso Atlantide è un po', diciamo Atlantide, chiunque di noi ci viene in mente un mondo di tutto, ma hanno avuto anche un po' proprio un peso nella civiltà umana nel corso dei secoli che io sinceramente ignoravo e mi è interessato approfondire. Si tratta di un'isola leggendaria, chiaramente noi molto spesso gli esseri umani si sono immaginati, va bene, noi vediamo le terre emerse, ma quello che sta sotto a volte stava sopra. Quindi si immaginano che alcune terre che prima erano in superficie, a un certo punto per varie ragioni possono invece sprofondare. È questo il caso di Atlantide, che appunto è un'isola leggendaria che prima era in superficie. La prima volta che viene menzionata Atlantide è nei dialoghi Timeo, ma anche in Critia, di Platone. Quindi nel Timeo Platone parla in particolare di questo di questa isola, oltre le colonne d'Ercole, quindi oltre il mondo conosciuto, già a significare l'ignoto, dove c'erano una serie di isole, appunto tra cui questa isola di Atlantide. Queste isole attraversavano questo mare e lì c'era questa potenza, una civiltà potentissima chiamata Atlantide, che in realtà in questo racconto Platone dice avrebbe conquistato anche molti altri popoli mediterranei dell'Europa occidentale, fino all'Etruria a nord, del Nord Africa fino all'Egitto. Questo fondamentalmente circa, risalendo un po', 9600, fino al 9600 avanti Cristo. Quindi Platone si immagina questo passato lontanissimo dove questa civiltà prosperava ed aveva anche colonizzato e combattuto altri popoli. Però chi è che non riesce a conquistare? Ovviamente nella visione di Platone, quando poi la potentissima Atlantide prova a conquistare Atene, che invece sappiamo essere la polis perfetta del bene e tutto, chiaramente fallisce. Va malissimo e quindi Atlantide viene sprofondata in un singolo giorno e notte di disgrazia ad opera di Poseidone, perché Poseidone chiaramente difende Atene, la protegge dal male in quanto città, almeno secondo la visuale del racconto di Platone, ideale, e quindi distrugge Atlantide e la fa sprofondare. Questa storia di Platone, questo racconto di Platone, in realtà già i successori di Platone, cioè già subito dopo, viene riconosciuto, perché si inizia a po' parlare anche al tempo contemporaneo di Platone, ma quest'isola, ma quindi esisteva davvero? Ma Platone, cioè, se l'ha inventata oppure fa riferimento a effettivamente una civiltà che esisteva? Già i contemporanei di Platone o poco dopo ci dicono che no, che tendenzialmente Platone se l'era inventata. Ma questa cosa non placa l'idea che effettivamente questa civiltà di Atlantide fosse effettivamente esistita, e questa storia di Platone poi viene riscoperta dagli umanisti nel Rinascimento, diciamo, dal Rinascimento in poi viene riscoperta e da là ha un sacco di teorie, tra cui per esempio Bartolomé de las Casas sostiene che, per esempio, che la stessa impresa di Cristoforo Colombo era stata sollecitata, nasceva in qualche modo dal desiderio di vagliare il mito dell'esistenza di Atlantide. Non so se questa cosa se l'è proprio inventata di sana pianta de las Casas, però potrebbe non essere così di fuori, perché in fondo la conquista economica va spesso, abbiamo visto, di pari passo anche con un sogno anche di esplorazione. Quindi, certo, era sì. La base era l'esplorazione, e i grandi potenti sono sempre stati affascinati dalle grandi leggende. Anche un po' la hubris del ritrovare un qualcosa di enorme, mai scoperto. Vabbè. Infatti poi ci sarà il Dorado, no? La città d'oro. Esatto. Molto spesso le colonie, in fondo, avevano questo mito alle spalle. E in generale dice che con la scoperta dell'America il mito platonico venne tirato fuori molto spesso con indirizzi diversi, fondamentalmente per dibattere sulla questione della legittimità dei possedimenti coloniali. Certo. Nonché anche per cercare di rispondere all'inquadramento storico delle popolazioni native, perché te chiaramente vai a scoprire un territorio che finora non pensavi esistesse, scopri una popolazione nuova. Non che c'è poi un pieno di gente. È pieno di gente, cazzo, è tutta diversa da te, magari. E tu lì inizi a farti delle domande, dici, aspetta, allora, opzione A, sono alieni. Opzione B, siamo tutti discendenti di Adamo ed Eva. Se siamo tutti discendenti di Adamo ed Eva, allora io che diritto c'ho di colonizzarti? E quindi si pone un problema. Oppure, no, quelli in realtà non sono discendenti di Adamo ed Eva, vengono da un'altra stirpe, magari più sfigata, che abbiamo giustamente conquistato anni or sono, quindi io faccio bene a conquistarli, sì, ne ho il diritto. Oppure altri che ti dicono, al contrario, no, quelli fanno parte invece dell'antica stirpe di Atlantide, quindi hanno il diritto di stare su questa terra più di noi. Grande dibattito. Poi sappiamo bene come è andata a finire, al di là del dibattito, sterminati tutti, però... Certo. Esatto, è questo. Ci si fa pace. Menzioniamo per Atlantide, e dobbiamo assolutamente menzionare Atlantis della Disney, che io non sono un grande amante della Disney, ma Atlantis, secondo me, quello invece, come l'Isola del Tesoro, sono quelle opere interessanti. Tutto sommato è una rivisitazione in cui ci sono gli esploratori che vanno a cercare Atlantide e la trovano, e Atlantide viene rappresentata come se fossero antichi Maya, praticamente abitanti del sottosuolo, del sottomare. Capito. Con delle tecnologie particolari che solo loro hanno là in fondo, e chiaramente vivono in armonia con il mare, con l'oceano, e loro arrivano un po' steampunk, cioè molto, molto vapore, molto figo. Bello. E loro vanno giù, e chiaramente ci sono quelli buoni che vogliono solo fare amicizia e conoscere ed esplorare, e poi però c'è chi aveva finanziato tutto e, come sempre, è poi quello in realtà che ha più cupidigia e che vuole invece conquistare e trovare i tesori, e che quindi porterà poi alla distruzione di tutto. E rovina tutto. E rovina tutto, come sempre. Quindi ci stava di menzionarlo, perché per Atlantide, secondo me, questa è una bella rivisitazione. E poi pure Verne, proprio in 20.000 leghe sotto, esatto, i mari, a un certo punto colloca Atlantide, perché chiaramente nel suo viaggio il Nautilus non può che imbattersi ovviamente in Atlantide. La colloca a 300 metri di profondità sul fondo dell'Oceano Atlantico. Noi sappiamo che non è il fondo. Esatto. Assolutamente. Vabbè. 300 metri. Quasi che ci arriviamo. E al centro di un bosco sottomarino, dietro a un promontorio sommerso, a un certo punto ecco che spunta Atlantide. E altri riferimenti in realtà li troviamo veramente dappertutto. Atlantide è una dei miti che veramente si ritrovano ovunque. Tra l'altro pure i nazisti ci sono andati in fissa come tanta roba loro con tutto quello che era. Gli nazisti sono andati in fissa con tutto, ovviamente erano anche quelli loro discendenti, cioè loro erano discendenti pure di quelli, claro, chiaro. E niente, un altro, due citazioni che vi volevo dire erano Atlantide, figli dell'abisso, che è un romanzo avventuroso di Jumbo, che era vero. In arte, cioè lo pseudonimo di Enrico Novelli del 1901, dove poi in realtà, sempre su questo tema, questo autore realizzò il fumetto Gli Uomini Verdi, abbastanza famoso, del 1935, che è una delle primissime storie italiane di fantascienza a fumetti. Quindi, molto carino, tra l'altro, se ne trovano ancora un po' di tracce, si può andare a vedere. Altra cosa che va citata riguardo ad Atlantide è Tolstoj, il romanzo Elita, del 1922, quindi proprio all'inizio, cioè proprio piena era di rivoluzione d'ottobre. Tolstoj scrive questo romanzo dove fondamentalmente fa ritrovare i superstiti degli Atlantidei sul pianeta Marte. Quindi prendiamo gli Atlantidei, bellissimo, che sono sprofondati e invece vengono messi su Marte, e ci sono in questo caso due sovietici, Gusev e Los, che viaggiano verso Marte. Al loro arrivo trovano appunto la vita aliena intelligente e insomma iniziano. Gusev, uno dei due che era un soldato, aveva partecipato alla rivoluzione d'ottobre e chiaramente si lascia infervorare e cerca di rovesciare la tirannia che trova su Marte, perché ovviamente subito deve fa casino. L'altro invece, Ross, si innamora di Alita, che è una ragazza dalla pelle blu. E da lì, insomma, ci sono vari eventi, varie vicissitudini, e si scopre, i due scoprono che la popolazione di Marte, appunto, discende in realtà da Atlantide, che questa popolazione era partita tempo prima dalla Terra e era fuggita su Marte. Questo fantastico. C'è invece, giusto per dare anche un accenno videoludico, nella grande, non so se conosci il grande filone di Assassin's Creed, un no? po', lo conoscerai, po', sì, sì. Che si fonda proprio tutto sulla storia e sul far rivivere ai giocatori la storia e viverla proprio in prima persona. L'altro, sto rigiocando ora la trilogia di Ezio, che è Ezio Auditore. È il primo capitolo ambientato a Firenze, nel sì, Firenze rinascimentale, quindi conosci Lorenzo il Magnifico e Leonardo da Vinci, è figo, comunque è figo. Vecchio, legnoso, ma avevo voglia di rigiocarci. Gliene hai dette 4? Sì, certo. No, Lorenzo Magnifico sei amico, combatti sì, contro dai. I pazzi che sono con i templari. Certo, quelli lì erano cattivi. Cattivissimi. E Leonardo invece è con te, è un amico, ti fa le armi poi. Certo. Che... figo. Io, all'interno di tutta questa grande filone, a un certo punto in due o tre giochi fa, insomma, non mi ricordo, ce n'è uno ambientato nell'antica Grecia, bellissimo, dove vedi la Sparta, Atene, te la vai a vivere, incontri grandi insomma, i grandi, come si dice, i grandi protagonisti della storia greca, e a un certo punto però tutta la storia si intreccia anche con Atlantide. Tu vai a visitare proprio Atlantide, oddio, devi fare alcune cose per poter entrare, anzi devi comprare, pagare il DLC per andare a vedere Atlantide, bastardi. Però c'è l'Atlantide, è spiegata come una di quelle grandi città create da coloro che in realtà colonizzarono la Terra per primi e che poi dopo ci crearono e ci usarono come animali, ci allevarono come animali, poi noi a un certo punto riusciamo a liberarci e da qui viene tutto il mito di Dio e della mela d'oro, viene tutto in realtà non c'è niente, erano degli alieni. Bello. Che ci hanno, e quindi che poi noi dopo piano piano avevamo trasformato in dei, quindi tutti quegli dei di cui noi parliamo in realtà erano alieni, banalmente ci avevano dominato, eccetera eccetera. Atlantide è molto bella da vedere, anche quella lì non è però in questo caso una città sprofondata, una città stata costruita lì apposta e lì rimane, e lì è non è sprofondata, nasce già sott'acqua, vedi. Sì, tra l'altro ci sarebbe pure da citare gli snorchi che stanno sott'acqua, che era un cartone animato penso degli anni 80, io non penso di ricordarmelo solo io, che erano questi specie di esserini con un tubo in testa, non lo so, buffi. Che sono dagli stessi creatori di Esplorando il Corpo Umano, esattamente, direi. Esattamente, esattamente. I disegni sono quelli, bello, fantastico. Era carino. Non ricordo molto, ho dei ricordi vaghi, però era tutto ambientato sotto e loro stavano in questa specie di Atlantide palesemente. Ah, Anna Barbera. Sì, erano, è vero, erano loro. Ciao. Sì. Sempre parlando di città sommerse, arriviamo alla terra di Mu. Ecco, questo è interessante. E la terra di Mu è un'altra, perché era un'entità, cioè un ipotetico continente scomparso, pensava nell'oceano Pacifico, che a un certo punto, a metà, insomma, tra la fine 800 e inizio 900, viene descritto da questo anglo-americano Church Ward sulla base di una traduzione poi rivelatasi completamente errata del XIX secolo dell'abate fiammingo Charlatien Brasseur de Beaubourg, da un manoscritto maya. Cioè, praticamente c'era questo abate fiammingo che a un certo punto si inventa di sana pianta, prima ha fatto bruciare una quantità di manoscritti maya, tanto erano inferiori e tanto parlavano di Satana e quindi era meglio bruciare tutto. Poi a un certo punto c'è una sorta di riavvedimento e dice: no, aspetta, non è vero, traduciamoli, e io, che sono sicuramente superiore in quanto bianco e colono, ho inventato un metodo per tradurre. Lui praticamente scazza completamente, perché si era inventato un alfabeto equivalente fondamentalmente fonetico, non aveva capito un cazzo di come si leggevano i manoscritti maya. Bravo. E quindi ha iniziato a mettere in giro tutta una serie di traduzioni di questi manoscritti maya completamente sbagliati, tra cui questo manoscritto che parlava di questa terra di Mu. Quindi inizia a dare fondamento a questo mito, di questo continente scomparso. E quindi cosa succede? Questi libri hanno una bella notorietà, e da lì poi partono tutta una serie a catena, come succede anche adesso del resto, come si creano i vari le varie pseudoscienze, complottismi, eccetera. Ecco, a catena da lì parte tutta una serie di pubblicazioni fantastiche, fantarcheologiche, che asseriscono di trovare in antichi documenti che via via sono indiani, amerindi, cinesi, cioè questi riferimenti alla terra di Mu compaiono un po' dappertutto, e tutti confermano questa antica teoria dei Maya che non c'è mai stata. Ora, in realtà, ora sappiamo che l'esistenza di questo continente non è assolutamente compatibile con la storia geologica del Pacifico. E noi quelle lì le sappiamo, cioè scientificamente adesso sappiamo la teoria delle derive dei continenti, sappiamo tutta una serie di cose che prima non sapevamo e che adesso abbiamo dimostrato, e quindi quella teoria là l'abbiamo completamente smontata, abbiamo capito che questa terra di Mu non poteva esistere. E secondo loro però invece, secondo Church Ward, la scomparsa di questa terra di Mu avvenne circa 12.000 anni fa, e prima c'erano 64 milioni di persone di varie razze, sulla quale predominava ovviamente quella bianca, con molte grandi città e colonie negli altri continenti. Questa roba, oltretutto, che non manco c'era sul manoscritto dei Maya, cioè quindi lui ce l'aggiunge pure, parte da una cosa finta e ci aggiunge tutta una roba sua ancora più finta, chiaramente ovviamente viene anche questa usata come base ideologica per le colonie, no? Cioè anche lì si insiste sul fatto che le colonie ci sono sempre state, che c'erano delle razze superiori di esseri umani che dominavano l'uno sull'altro, e che quindi in fondo ricercare questa cosa anche adesso è solo un portare avanti un'antica eredità degli esseri umani, quindi darsi una, come dire, anche una giustificazione pseudoscientifica e storica. Questa cosa viene ripresa tantissimo pure qui, pure nazisti, anche questo gli piace ovviamente, pure in Lovecraft, che abbiamo visto essere, sì, personaggino da questo punto di vista un po' problematichello, e quindi questa già ce l'aveva con Albione, figuriamoci quando qualcuno gli vero, dice ci sono 64 milioni di bianchi che dominavano tutti gli altri esseri umani, poi lui ci dice bombissima. Quindi chiaramente ci infila la terra di Mu anche nel ciclo di Cthulhu, e insomma e poi appare in tante altre sue storie, ecco. E questa era la ottima terra di Mu. Fighissimo, sì, ne avevo sentito parlare, assolutamente. Credo ci sia anche qualcosa, però non ho approfondito. Qualcosa di scritto che racconta, qualche romanzo che racconta un po' la terra di Mu, o qualcosa di similare. Ah sì, moltissimi ne parlano. Un'altra era Lemuria. Ecco, questa sai, invece sono molto più ignorante. Ah, che io non l'avevo mai sentita dire, ma mi fa troppo ridere, perché Lemuria, cosa vi fa venire in mente? I lemuri. Esattamente quello, cioè non è un caso. Bello. Perché praticamente prima della teoria della deriva dei continenti, chiaramente gli scienziati sono un po' andati nei pazzi a capire perché certe specie animali e vegetali si trovavano da una parte all'altra del mondo in condizioni anche diverse. Quindi loro questa roba non riuscivano proprio a capire. Quindi formulavano delle teorie e fondamentalmente queste teorie spesso gravitavano intorno alla teoria dei continenti sommersi. Quindi dicevano, prima c'era nel mezzo tra due continenti, ce n'era un altro che è cascato giù, e quindi è per questo che si trovano da una parte all'altra le due specie. Adesso questa cosa sarebbe impossibile perché ci sono delle barriere, ma se prima te ti immagini che nel mezzo c'era la Terra, torna tutto. E quindi, per esempio, siccome i lemuri attualmente si trovano solo in Madagascar e nelle isole vicine, a un certo punto scoprirono delle famiglie di lemuri estinte dal Pakistan, cioè sia in Pakistan sia in Malesia, e questa cosa non gli tornava. Diceva, ma com'è possibile? E da lì nasce questo nome di Lemuria, non so dove va l'accento, penso Lemuria, termine che viene coniato nel 1864 dallo zoologo Philip Sclater in questo articolo The Mammals of Madagascar. E praticamente lui era molto confuso su questo fatto che c'erano questi lemuri sia in Madagascar sia in India, e invece in Africa e in Medio Oriente non c'erano, quindi lui si va un po' in panico. E allora da lì deriva questa esistenza di questo posto, che era un continente più grande, che viene chiamato Lemuria proprio dal nome dei lemuri. Lui non si ferma lì. Ok. Gli altri non si fermano lì, e perché poi, come sempre, gli altri ci ricamano sopra, e si inizia a pensare che questo continente fosse abitato da creature, di nuovo, stranissime. In particolare questa roba fa presa su una serie di esoteristi, di personaggi particolari, per cui iniziano a pensare degli esseri, anche qui di nuovo delle specie umane dominanti, superiori, esseri tuoi, arrivò già sulla storia degli esseri umani superiori, che erano esseri androgini, che però avevano tutta una serie di poteri, facevano tutte cose stranissime, insomma. E quindi da venerare e evocare in mezzo alle fiamme e ai sacrifici. E chiaramente i buoni sono derivanti da quel mondo lì. Chiaro. E devo dire, la prima volta che sentivo parlare, mi ero immaginato invece un continente abitato da lemuri come Madagascar. Esatto, che ballano. Invece no, danno solo il nome. Era molto più simpatico. Era molto più così simpatico, anche secondo me. No. Anche secondo me c'è una questo è, insomma, è un po' nel mezzo, però c'è una parte del Giappone sprofondato, no? L'avrei sentito nominare, che non si capisce se sia c'è questa grande conformazione che sembra quasi che sia stata lavorata dall'uomo e non dalla natura. Quindi è una sorta di sito archeologico che è sott'acqua, non è sprofondato a centinaia di chilometri, ci si arriva abbastanza facilmente. Che ha dato adito chiaramente a leggende, però molto meno diffuse, con storie certo molto meno divertenti di quelle che abbiamo raccontato finora. Però c'è anche quello. Ma guarda, ma fra l'altro, riguardo ad Atlantide, ad esempio, che chiaramente tra tutti è il mito più conosciuto, sono state fatte veramente milioni di teorie, e Atlantide viene collocata, penso, in qualsiasi angolo del pianeta. Cioè, chiunque reclama Atlantide sotto di sé. Certo. Leggevo che una delle teorie è anche che sia la costa dell'Argentario, cioè l'Argentario in realtà. Quindi Italia. è Atlantide. Ci sto, mi piace. Ma ti immagini l'Argentario? Parlano un po' grossetano, infatti, sì, di Atlantide. Ma guarda, ma poi le teorie sono tipo perché la forma, una forma un po' a faccia di... No, guarda, vabbè, certo. Fantastico. Quando unisci i continenti e poi unisci quelli che ti pare. Cioè. È bellissimo. Tipo le nuvole, no? Che ci puoi sì, vedere. È chiaro, tutto. Chiaro. Ognuno ci vede quello che vuole. È così. E poi speriamo esista, per carità. Ah, magari, magari, figurati. E fantastico. Ci fermiamo un secondo e poi ripartiamo continuando a parlare degli abitanti degli abissi, andando oltre al 20.000 leghe sotto i mari, cioè riprendendolo, andando oltre. Quindi rimanete con noi, fantascienza ed abissi. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two a nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf where I was born. Cut a stout mix hard, a banished ghost and goblets, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5. Hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make for all the dogs. In Mullingar the night I rested limb so weary, started by daylight next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure. When there he's off a drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn him down the rocky road, and all the way to double and make for lullida. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so soon in the private view of Dufferin City. Then I took a stroll all among the quality bundle it bestowal. In a neat locality something crossed me mind, when I looked behind no bundle could I find. Upon me stick a warrant inquiring after the rogue, said me cunnus brogue it wasn't much in bow. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt ahead and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make for lullida. From there I got away, me spirits never failing, landed on the cage just as the ship was sailing. Captain at me road, said that no room hardy, when I jumped aboard a cab and flew for paddy down among the pigs, did some hearty rigs and played some hearty jigs. The water ruined me bubbling when I fully had, I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, up to hair and turn down the rocky road, and all the ways to double and make for lullida. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as and poor old air. They began abusing her, me soul says I'm a shillelagh, I'll apply. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the lower hooray, the giant in the affray quickly clear the way for the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and make for lullida. Dalle profondità degli abissi. Come mi piace questo tappetino. Bello, vero? Sì. Era di un documentario sugli abissi. Vedi, rilassante. Dicevamo, gli abitanti del mare, perché chiaramente ora vi abbiamo parlato delle, dei luoghi, delle città, le civiltà nascoste, sprofondate, poi riemerse, e invece ci si ora concentra sul chi abita gli abissi effettivamente. Vi abbiamo parlato dei 20.000 leghe sotto i mari, di tutto quel mondo che si immagina Verne, che sarebbe davvero difficile adesso approfondire perché è un viaggio lunghissimo. Tra l'altro sono stati fatti film, varie opere, insomma diciamo che questo libro di Verne davvero lo ritrovate un po' ovunque. E invece ci sono altri spunti più magari meno noti, tra cui il nostro caro carissimo amico Wells, H.G. Wells, ricordiamocelo, il nostro socialista preferito della macchina del tempo, insomma, che ha scritto bellissimi libri in epoca positivista, che quindi purtroppo insomma c'ha un po' questa tara, ma che comunque sia era molto critico, e ha scritto questo libro, I razziatori del mare, dove praticamente nel 1895, a un certo punto parla di questo episodio molto cruento in cui in un solo giorno ben 11 persone, tra cui una bambina, vengono divorate da un branco di cefalopodi nelle coste del Devonshire, sostanzialmente nei pressi di Sidmouth. Questi cefalopodi, questo cefalopode è una sorta di calamaro gigante che attacca due imbarcazioni. Nonostante la strenua resistenza sia dei marinai che dei passeggeri, lì se ne mangia tutti in un suo boccone. E questo, lui, come abbiamo visto altre volte parlando di Wells, lui è proprio fantascienza di quella original, perché dà un contesto scientifico alle cose di cui parla, quindi dà dei nomi a questi animali, nomi assolutamente inventati. Questa creatura non esiste, lui se l'ha inventata, la chiama Aploteutis ferox. E dice pure che in passato di questo cefalopode se ne sapeva poco, molto poco, perché erano stati ritrovati solamente in diversi periodi e circostanze un tentacolo mezzo digerito e un esemplare in fase di decomposizione. Ora, in realtà, tutta questo racconto di Wells, che boh, carino, però non è manco la fine del mondo, però è interessante perché, nonostante stia parlando di una roba assolutamente inventata, perché questo Aploteutis ferox non esiste e non è mai esistito, se l'ha inventato lui, ma in realtà fa riferimento a degli episodi molto veri, molto esistiti, perché in realtà il riferimento è il calamaro gigante, che ha un nome vero, è stato classificato, e si chiama Architeutis dux, che tra l'altro sono veramente anni, centinaia di anni che si studia e cerchiamo di capirne di più. Pare, leggevo, che solo nel 2012, mi sembra, insomma molto di recente, nel 2019 addirittura, cioè molto molto di recente, siamo riusciti, grazie a una spedizione giapponese, 2004, allora un po' prima, però siamo riusciti a fare le riprese di questo calamaro gigante nel suo habitat, quindi vivo e mentre faceva cose dentro il suo habitat. Fino al 2004 gli unici riferimenti a questo calamaro gigante sono stati ritrovamenti di pezzi di calamaro, oppure calamari interi spiaggiati, quindi fondamentalmente calamari ormai in decomposizione, perché chiaramente pensate che se un calamaro gigante che vive a centinaia di metri sott'acqua, prima di arrivare a spiaggiarsi ci mette mesi. Quindi in realtà arriva già decomposto, sostanzialmente, quindi anche difficile da studiare, perché chiaramente si tratta di corpi spappolati. Quindi insomma lo studio di questi esseri è molto difficile. Pare, leggevo, se non ricordo male, appunto nel 2012, ma magari mi sbaglio, comunque molto di recente si è abbastanza arrivati ad escludere che esistano varie specie, ma esiste un'unica specie di calamaro gigante con delle conformazioni un po' diverse a seconda dell'angolo del pianeta dove sta. Pare che esista quasi dappertutto sotto negli abissi, ma di fatto pare sia un'unica specie. Questo calamaro gigante a sua volta genera la leggenda del Kraken. Eh sì, certo. Di cui vi abbiamo anche già parlato. Anche perché quando sono grossi, cioè lunghi. Si parla di decine di metri. Decine di metri, però. Sì, una roba gigantesca. Chiaramente il Kraken, mito norreno, che è un po' più, che poi è stato ripreso un po' altrove. Chiaramente lo trasforma un po', lo fa diventare quasi una piovra, diventa quasi qualcosa di più di un calamaro, non è ovviamente fedele, e chiaramente da lì il mito parla di queste navi attaccate da questi giganteschi Kraken. Perché, tra l'altro, questa cosa della piovra? Perché la piovra in realtà è un polpo. La piovra gigante, che esiste come animale, è un polpo molto molto molto molto grande, di cui abbiamo visto spesso le immagini, perché c'ha questi tentacoli, però c'ha una sorta di ombrello, fondamentalmente. Invece i calamari sono tutta un'altra roba. Totale. Sì. Totalmente diverso. Quindi sì, è questo, no? È la grande confusione che è stata fatta. Io e lo metto poi tutto insieme, esatto, perché magari trovano un tentacolo gigantesco, da lì iniziano a dire forse è una piovra gigante, invece magari era un calamaro. In tutto ciò, comunque, i capodogli se li sgranano. Questi sono l'animale. Cioè, il loro predatore è il capodoglio. E poi dice anche lo squalo della Groenlandia. Non so come sia fatto, ma il capodoglio ce l'ho presente. E infatti dice che in realtà riescono a capire. Perché chiaramente loro non sono gra. Cioè, loro esseri umani. Non come noi. Loro esseri umani riescono a teorizzare dove sta il calamaro gigante solo basandosi sul predatore. Perché in realtà il predatore sanno dove sta, perché li vedono, i capodogli lo sai dove sono. A respirare, a un certo punto vedrai, quindi emergono, quindi quelli li puoi vedere. Quindi sai dove abitano e quindi essendo i capodogli predatori fondamentali del calamaro gigante, dicono ok, allora ci saranno anche, presumibilmente anche lì, boh. Dicono, si pensa, è ragionevole pensarlo, però chissà, ma non perché lo sanno davvero, diciamo che l'ipotesi è basata su quello. Sì, sì, certo. Il polpo gigante di cui parlavi si chiama Lusca, che è tra i 20 e i 60 metri, per buttarvela lì, che è segnalato fondamentalmente ai Caraibi, alle Bahamas, e insomma anche lì più o meno è come il calamaro gigante. Se ne sa poco, sì, più o meno si pensano, si sanno delle robe, ma non è che proprio si sa molto. Anche lì gli si è attribuito delle caratteristiche che abbiamo osservato nei polpi piccolini e abbiamo deciso che ce l'aveva anche quelli grandi, tipo il cambio di colore. I polpi piccoli possono cambiare di colore, questo è fatto noto. E quindi da lì la leggenda vuole che pure le lusca, questi enormi polpi, cambiano colore, perché chiaramente un polpo gigante di 60 metri che cambia pure colore, insomma, è figo. Però non si sa davvero, cioè magari no, quindi insomma anche se ne sa un po' poco. Altra creatura che è leggendaria, creata dall'immaginario a partire dal calamaro gigante, è Scilla. La famosissima Scilla, che è un mostro, e qui il mito greco, in origine Scilla era una ninfa che viveva in Calabria e faceva il bagno sulla spiaggia di Zancle, e faceva il bagno al mare. Una sera vede apparire dalle onde Glauco, che un tempo era stato mortale, ma ormai era un dio marino, metà uomo e metà pesce. Scilla, terrorizzata alla sua vista, aggiungo io, secondo me perché andava sempre male con gli dèi, tendenzialmente le ninfe venivano stuprate, quindi insomma si piglia male, si rifugia sulla vetta di un monte che sorgeva vicino alla spiaggia. Il dio, vista la reazione della ninfa, inizia ad esclamare il suo amore, pure stalking. A quel punto Scilla fugge, lasciandolo solo nel suo dolore. Dice: senti, ma che vuoi da me? Allora Glauco, non contento, non pago, si reca dalla maga Circe e gli chiede un filtro d'amore per far innamorare la ninfa. Ma Circe, gelosa, desidera il dio per sé e gli propone di unirsi invece a lei. Dice: ma lascia perdere sta ninfa, vieni con me. Glauco si rifiuta. E Circe, furiosa per essere stata respinta, si vendica, anche lì grande classico della mitologia greca. E quindi quando Glauco se ne va, Circe prepara una pozione malefica, va alla spiaggia di Zangle, dove stava appunto la ninfa Scilla, versa il filtro in mare e se ne va. Quando Scilla arriva, si immerge in acqua, fa il bagno e da lì si trasforma, perché inizia a vedere questa metamorfosi in lei, vede crescere, vede che gli spuntano tante altre gambe di forma serpentina e insomma inizia, spaventata, scappa dall'acqua, si specchia nell'acqua e si accorge che si è completamente trasformata in un enorme mostro altissimo con 6 teste di cane lungo i fianchi, un busto enorme, delle gambe di serpenti lunghissime, e insomma nasce. Boh, perfetto, e nasce il mito di Scilla. Secondo alcuni, dalla vita in su manteneva il corpo di una fanciulla, mentre altri invece dicevano di no, che anche dalla testa in su, dalla vita in su aveva 6 teste di serpenti. Per l'orrore Scilla si butta in mare, ovviamente tanto va sempre a finire male, si butta in mare e va a vivere nella cavità di uno scoglio vicino alla grotta dove abitava anche Cariddi. Da lì Scilla e Cariddi. E da lì si pensa che Scilla vive lì sotto in Calabria sostanzialmente, e da lì poi questo mito, Scilla e Caridi si ritrovano anche nell'Odissea e si ritrovano, come dicevi tu all'inizio del nostro racconto, in tutti i vari miti e leggende dei marinai che ne parlano e dicono: ho visto Scilla. Questo erano un po' i miti che derivano dal grande calamaro gigante. E ancora ce ne sarebbe da dire, ma insomma. Sì, esatto. Altre creature che stanno negli abissi sono ovviamente il Leviatano. Il Leviatano se ne potrebbe parlare per una puntata intera. È una creatura con la forma di un serpente marino, quindi che sta in mare, ma è un serpente molto strano come creatura, perché è un po' anfibia volendo, che è nota sia nella teologia che nella mitologia ed è citato in diversi libri della Bibbia ebraica. Anche lì il Leviatano poi viene assolutamente reclamato da un po' tutti, non ultimo Hobbes, quando parla, tra l'altro lo cita come per parlare dello Stato, come metafora dello Stato, e questo era una delle creature, insomma, che poi vengono, che si ambientano, si collocano negli abissi, in fondo agli abissi, e che sono poi parte della nostra cultura di fatto umana. E poi il serpente marino in realtà è un serpente che viene ripreso in tantissime culture. Ora noi vi abbiamo citato alcune, ma in realtà si ritrova veramente, direi, in tutto il mondo, magari altre forme, altri miti, ma diciamo che questo mito del serpente marino, mostro che abita negli abissi e che a un certo punto ogni tanto risorge dalle acque, c'è un po' ovunque, in tutte le culture. Certo, mi viene in mente anche Nancy. Potrebbe essere Loch Ness. Esatto, sì. Loch Ness, che poi però in realtà rimane lì, non ha una diffusione planetaria, perché è famoso, però di per sé è un animale, sta lì, punto. È vero, ogni tanto viene avvistato, però si fa cazzi suoi. Di base si fa cazzi suoi. Sì, è vero, infatti poi c'è la nebbia, però... Il Leviatano, tra l'altro, è interessante perché a un certo punto all'interno della fantascienza, in tutte le sue forme, il Leviatano esce dall'acqua e diventa una creatura anche volante. Sì, vero. E non solo marina, però nasce come creatura marina. È strano il mito del Leviatano, perché poi è molto antico. Gli vengono date... biblico, cui... sì, ma a loro volta anche prima, cioè pare che si riferissero ancora a civiltà ancora precedenti, però non sappiamo neanche risalire bene, chiaramente. Io ho letto un po' di cose, ma minime, insomma, chiaramente, ma mi pare che sia talmente ramificato questo mito, talmente diffuso, che sia anche difficile poi ormai dargli un'origine, capire bene le sue caratteristiche. Anche Andersen, il grande autore di fiabe, scrive un racconto sul grande serpente di mare, che è un racconto bellissimo, che si trova online nella sua interezza e potete leggervi. È una lettura anche veloce, piccolino, vi consiglio di leggerlo perché è veramente splendido. Perché cosa succede? I protagonisti sono dei pesci, ci sono questi pescetti che nuotano nel mare felici, tutti contenti. A un certo punto gli arriva addosso dall'alto un enorme serpente lunghissimo. Spadabam! Gli arriva addosso tipo una frustata, e questi panico, dicono: oddio, che è sta roba? E Andersen, voce fuori campo, ci dice: ma noi lo sappiamo che cos'è, loro non lo possono sapere, ma noi sì, è un cavo del telegrafo. Cioè, praticamente Andersen parla di un cavo, e in effetti gli anni erano quelli, bravo, in cui si iniziavano a posare i cavi sottomarini del telegrafo, si facevano i primi esperimenti di comunicazione subacquea e transoceanica. Esatto. E quindi Andersen parla di questo cavo, si immagina questo cavo del telegrafo e come viene accolto dagli abitanti degli abissi, perché questo casca giù enorme e tutti, lui parla di tutti, i pesci, le loturie, i pescecani, tutti, i tonni, tutte le varie i vari abitanti, polpi, calamari giganti, chiunque sta là sotto e racconta le varie reazioni. Fantastico. E chi ne è spaventatissimo, chi dice no, invece dovremmo cogliere questa opportunità perché l'arrivo di questo cavo del telegrafo ci porterà, per esempio, smuove le correnti e possiamo usufruire delle sue correnti, quindi ce ne porta giovamento. Chi dice no, moriremo tutti per colpa di questo cavo del telegrafo, insomma, di questo serpente. Quindi chiaramente una metafora di Andersen molto bella sul come viene accolta anche l'innovazione tecnologica, la nuova tecnologia. Si può definire, secondo me, veramente un racconto di fantascienza. E a un certo punto questo cavo del telegrafo, anche lui ha un pensiero. Giusto. Lui dice: io non mi occupo tanto di cosa dicono, perché io sono molto occupato a dover far parlare, dover far trasportare le comunicazioni, quindi c'ho già i cazzi miei, non mi posso occupare di voi pesci. Però si accorge che tutti i pesci gli stanno intorno, e a un certo punto alcuni di questi pesci decidono di sabotarlo, decidono che è pericoloso e quindi provano a mangiarlo, a rosicchiarlo, a spezzarlo, ma non ci riescono, e quindi si ingaggia un dibattito acceso tra gli abitanti degli abissi per capire cosa fare di questo cavo del telegrafo. E quindi non vi dico altro, leggetevi questo racconto e per capire cosa poi ne sarà. Ci sta, anche perché comunque è un racconto breve, quindi sì, non ci vuole tanto, dai, ci sta. È molto divertente. Ultimo che vi voglio, che vi butto lì, che ho trovato, è un racconto di Yeats, quindi che a sua volta prende dal folklore irlandese. Chiaramente Yeats, come sapevamo, riprende le fiabe tipiche irlandesi e le rivisita, ma le tramanda, al grosso compito il grosso merito di tramandarle. E una in particolare si chiama Le gabbie d'anime, che è praticamente, c'è un pescatore che vuole tantissimo, qui si arriva al tuo argomento, vuole tantissimo conoscere le sirene, c'ha proprio la fissa di conoscere le sirene, perché suo padre l'aveva conosciuta una, insomma lui lo vuole conoscere. Allora fa di tutto per trovarle, si imbatte in una sirena che, guarda un po', invece è maschio, è una sirena maschio, penso lui non pensasse proprio questo. Il tritone. È un tritone, si imbatte in questo tritone che è un po' bizzarro, un po' vestito tutto strano, insomma, tutto un po' un abitante un po' vestito strano, un freaks del mare. E ha questo tritone che lo invita nella sua casa sottomarina, quindi con una serie di escamotage riesce a farlo portarlo negli abissi, nella sua casa, e gli fa vedere gli mostra la sua collezione di anime umane, che si chiamano gabbie dell'anima, che sono queste gabbie umane che somigliano un po' alle trappole per... come si chiamano i crostacei, per gli astici, niente, le aragoste, e lui, okay, quelle là, praticamente c'ha queste gabbie che sono di fatto queste trappole, dove lui, questo tritone, colleziona anime umane di marinai morti, naufragati. Quindi chi è naufragato, la sua anima viene raccolta da questo tritone, che per anche con moto anche di gentilezza le colleziona in queste gabbie. Quindi un racconto piuttosto poetico, dove poi, insomma, succedono anche altre cose, perché poi gli esseri umani, sia il pescatore che altri, insomma, non la prendono bene, dicono: ma come, dobbiamo liberare queste anime? E da lì, insomma, c'è un po' una battaglia con questo tritone, ma poi alla fine si capiscono. Fantastico. Mi viene da citare, ci sarebbe da citare tanto, mi viene però in mente, dalle mie letture del passato, anche da giovinotto, un qualcosa che è più fantasy che fantascienza, però la nostra Alicia Troisi, nel primissimo trilogia sua, che è La cronaca del mondo emerso, a un certo punto uno dei protagonisti, che sono appunto sono due protagonisti fondamentali, anzi c'è una protagonista e poi il suo amico Senna, non mi ricordo più come si chiama, che è convinto, Sennar, che è convinto che ci sia una civiltà in fondo al mare che vada chiamata per venire a combattere va, parte e effettivamente ci sono, li incontra e racconta di questa civiltà in fondo al mare molto evoluta che poi correrà in aiuto, per fortuna lui li convincerà ad aiutare i protagonisti nella grande lotta contro il Signore Oscuro. Ma pensa. Però anche lei l'ha tirato nel mezzo, quindi ci stava di raccontarlo. Anche Clark, tra l'altro, ha un romanzo The Deep Range, che è ambientato proprio in fondo al mare, però di nuovo insomma molto simile a altre cose che abbiamo raccontato. Che cos'altro mi veniva in mente di libri? Allora, perché il pad non ti viene in aiuto. Esatto, non c'è più la cosa che mi ero segnato. Vabbè, poi ne riparleremo. Passiamo a parlare invece di filmografia, direi. Sì, diciamo che spesso vi abbiamo parlato di B-movie, i cosiddetti B-movie. Chiaramente il filone dei mostri marini è un filone piuttosto in voga, piuttosto usato, che ha generato insomma grandi perle. Nel 55 più o meno parte questo filone, si fa partire lì con il film Il mostro dei mari di Robert Gordon. E da lì parte un po' questa sorta di moda su questi mostri marini e arriva fino agli anni 80, insomma, più o meno è una moda, è un filone che ci portiamo avanti. Il mostro dei mari parla della costa occidentale degli Stati Uniti, come sempre, è minacciato da una piovra gigante che viene contrastata da un equipaggio eroico di un sottomarino militare. Cioè, chiaramente, come abbiamo spesso visto, c'è un certo tipo di fantascienza che chiaramente polarizza le questioni e ne fa fondamentalmente propaganda. Idem nel 59, quando si parla da lì, si stufi probabilmente perché ormai il mondo degli abissi l'avevano un po' scandagliato nell'immaginazione più che potevano, un po' abusato, quindi dicono va bene, allora ma perché non andare oltre, facciamo una connessione tra il mondo degli abissi e il mondo alieno. Quindi c'è il film La guerra di domani di Spencer Gordon Bennett, dove c'è l'equipaggio di un sommergibile nucleare americano che si imbatte in un disco volante che si immerge negli abissi marini. Strana questa cosa. E negli anni 60 invece c'è Viaggio in fondo al mare del 61, proprio di Irwin Allen, dove chiaramente nel 61 iniziano le prime preoccupazioni ecologiche e ambientaliste, e quindi qui si parla di temperatura terrestre che cresce in maniera irrefrenabile, le calotte polari iniziano a sciogliersi e l'ammiraglio Nelson, alla guida di questo sottomarino atomico, il Sea View, mette in atto una strategia per riportare il pianeta alla normalità. E qui siamo meno tutto male. Il filone dei bravi ragazzi che ci salvano. Dei meno male ci sono gli americani meno che ci salvano, perché tendenzialmente loro hanno i soldi per salvare tutti. E poi anche la tempra. E la tempra, sì, la volontà. E, allora, volevo dire due cose. La prima, che è venuta fuori anche un po' da questo, e che mi è fatto venire in mente, è che... abbiamo detto a inizio puntata che gli oceani sono luoghi sconosciuti, tutt'oggi in parte sconosciuti, come lo è lo spazio. Da qui la fantascienza si è interessata all'ignoto e quindi non solo allo spazio ma anche all'oceano. E a un certo punto c'è stata una commistione, come appunto ci hai appena raccontato, in cui appunto lo spazio e il mare si fondono in qualche modo, ma poi anche il contrario. Nella fantascienza, soprattutto quella più moderna, spesso si incontrano animali, direi mostri giganti, che normalmente li vediamo nel mare, che nuotano invece nello spazio. Bello, e lo spazio diventa un mare infinito. Questi animali incredibili, tra l'altro ci sono alcuni videogiochi veramente molto belli di immersione e esplorazione spaziale, dove incontri magari questi giganteschi polpi fluorescenti, ti trovi in mezzo a questi banchi, oppure spesso ci sono grandi meduse. Le meduse tendenzialmente non sono mai cattive, è un animale che non c'è, cioè la medusa è qualcosa che sta, devi stargli lontano, non ti attaccherà, però se gli vai insomma, è pericoloso. Però comunque la cosa interessante era questo qui, che l'oceano poi si trasmigra nell'oceano dell'infinito, dello spazio. È molto bella. Tra l'altro, nelle cartografie, immagine, come lo dicevi anche all'inizio, nelle cartografie anche del cielo, degli astri, spesso si immaginava, si dipingeva come un oceano, come vero, un mare. Vero. Era come se ci fosse, sì, fosse speculare. Allora, mi è venuta in mente una cosa invece che mi ero segnato, che non c'è più, di un romanzo, scusami, per chiudere il coso di prima, che è Oceano Rosso. Finalmente riusciamo ad arrivare, lo diciamo da tempo, ad autori orientali. E Han Song ha fatto questo Oceano Rosso, che è una figata in realtà. Perché si immagina nelle profondità dell'oceano la protagonista del suo romanzo, che si chiama Stella Marina, che nasce e cresce in questo mondo che però invece non è idilliaco come spesso viene Atlantide, sono super, ma invece no, l'umanità è tribale laggiù, è regredita al punto di vivere solo allo scopo di superare crisi ed emergenze senza una prospettiva, cioè tipo noi ora. Sì, esatto, un po' tipo noi. Ricorda un po' quello che racconta Murubuto nel primo pezzo che abbiamo messo, che è il Viaggiatore del Tempo, dove racconta appunto, parte dal viaggio nel tempo, quindi prende la Wells, però a un certo punto in questo viaggio nel tempo il nostro viaggiatore nel tempo si ritrova in mezzo all'oceano, perché andando avanti nel tempo il mondo è tutto sprofondato, e quindi se lo sentite bene nel pezzo, riascoltatevelo, parla di queste dorsali coralline che in realtà sono le vecchie città che sono sprofondate, e l'umanità vive, dice, dopo un po', racconta nella canzone, dopo un po' il viaggiatore si rende conto che ci sono delle luci e vengono da dentro delle balene, perché la gente vive dentro le balene e bellissimo, si muove con loro. E un po' questa cosa è ripresa in Oceano Rosso, cioè ripresa, insomma, sono due cose separate, non credo si siano... Cioè tipo Pinocchio praticamente. Un po' tipo Pinocchio, brava, esatto. Bello. Vabbè, insomma, in questo romanzo la vita nell'Oceano Rosso è un'esperienza claustrofobica piena di pericoli, quindi è un racconto molto oscuro. Le donne e il cibo sono mezzi di scambio, i rapporti fraterni soccombono al cannibalismo, e l'unico motivo di speranza è una leggenda secondo cui esiste una città sottomarina, un luogo utopico, sicuro e pacifico. E quindi Stella Marina parte per cercare questo posto, quindi l'ennesimo viaggio di ricerca, che però insomma in un mondo, in un oceano disincantato, è interessante, diverso dal solito. Molto interessante anche questo, sì. E, sì, poi non lo so, in realtà io mi ero fermata un po' qua, perché ora tocca a me. Ce ne sarebbe 2000. Un'infinità. Allora dov'è? Qua allora non possiamo non parlare di Waterworld, ne abbiamo vero. Già parlato, ma per forza dobbiamo parlare. Non è sotto il mare, però è un mondo che è sprofondato per via dello scioglimento dei ghiacci, fondamentalmente, o così no, si ipotizza. E il nostro protagonista, ne abbiamo già parlato, quindi lo dirò velocemente, il nostro protagonista poi in realtà è uno di quei pochi mutaforma che sono usciti da e che si sono adattati, per cui c'ha le branchie, però in realtà di base la gente vive sulle barche, su atolli artificiali, e cerca di sopravvivere in quel modo. Molto bello, abbiamo detto, il primo grandissimo flop della storia sì, cinematografica, ma in realtà noto più che altro per questo. Ma poi è entrato nei cult, e per me lo è, io me lo riguardo abbastanza spesso, ogni paio d'anni me lo riguardo. Quindi assolutamente, ma non ci perderemo a 20.000 leghe sotto i mari, ne hanno fatte trasposizioni, sì, plurime, totali. Spesso veramente molto belle. Poi ci sarebbe The Abyss di Cameron. È vero, sì. È un sottomarino americano che sprofonda nel Mar dei Caraibi dopo aver urtato un oggetto non identificato nascosto negli abissi. È una classica spedizione scientifica per capire cosa sta succedendo. E insomma, poi si troveranno a scontrarsi con effettivamente una creatura con i tentacoli. È di base lo specchio di Alien, cioè quello che veniva fatto con Alien. Qui si riprende quella roba e si butta sotto negli abissi. C'è anche Underwater invece di William Eubank, c'è Kristen Stewart per esempio, è un film del 2020, quindi molto recente. I protagonisti sono praticamente, siamo nel 2050 nella fossa delle Marianne, e in sempre in questa ricerca, o comunque cercare di abitare le profondità, poi si scopre che lì si annidano mostri marini e misteri. E niente, quindi i nostri esploratori si trovano a lottare contro questi grandi mostri molto lovecraftiani. Quindi fanno molta paura. No, tra l'altro, cosa che noi non abbiamo detto, e forse a questo punto del racconto va detta, che uno dei motivi per cui, insomma, è anche ritornata un po' di moda a parlare degli abissi è appunto questa grossa mole di denaro che si sta spostando per investire sulla ricerca, sull'estrazione delle materie prime dal fondo degli oceani. Eh sì, certo. Perché si è scoperto che lì ci sono terre rare, che ci sono una serie di metalli che, guarda un po', ci servirebbero tantissimo per produrre le nostre diavolerie tecnologiche di cui non riusciamo a fare a meno, e quindi, dopo aver devastato ogni angolo delle terre emerse, adesso la ricerca si sta spostando, e veramente c'è un apporto di capitali grosso, sia dagli Stati Uniti, sia dall'Europa, sia anche dalla Cina, stanno investendo tantissimo. La Cina c'ha già il monopolio delle terre rare, quindi sì, ci ha già investito da un po', aveva già capito. Esatto, per cercare di andare pure lì sotto. Quindi lì si stanno, insomma, c'è una battaglia anche delle popolazioni che stanno lì intorno per cercare di non farsi colonizzare pure quello, e c'è una forte preoccupazione perché, come dicevamo all'inizio, non sapendo quasi niente, non sappiamo cosa tiriamo su, e oltretutto è un ecosistema, questo sì lo sappiamo, delicatissimo, da cui dipende molto probabilmente la sopravvivenza di tutte le creature viventi in questo pianeta, e quindi andare a pacioccare lì dentro è una cosa terrificante. Quindi io vorrei dare uno spunto per chi ci sta ascoltando, che magari ha in serbo di scrivere un romanzo, un film horror di fantascienza, di usare questo, magari Bong Joon-ho potrebbe essere, di cui abbiamo parlato, potrebbe essere un ottimo regista, sicuramente ci sta ascoltando, per fare, cioè, perché è una trama perfetta, cioè te stai, fai una spedizione per cercare di accaparrarti le terre rare, fai un casino, tiri su un calamaro gigante, un virus incredibile che stermina tutti. Secondo me. Allora, secondo me, ci sono già delle cose similari, non legate a questo, legate all'estrazione di petrolio. Tra l'altro, che basterebbe. E c'è questo film che io non sono riuscito a ritrovare, volevo trovare per questa puntata, e ho visto mille anni fa, che era proprio questa cosa qua, che loro costruivano questa centrale di stoccaggio in fondo agli oceani, e viva, siamo dei grandi. E poi però a un certo punto, a forza di trivellare, esce fuori sta bestia che li trita tutti. Dicevo, pre-erotica. Ma non ritrovo più il titolo di questo. Quindi, cari ascoltatori e ascoltatrici, se vi ricordate, se sapete qual è, o è uno di quelli che ho citato, o è Abyss, non me lo ricordo, però non mi sembra. Sì, comunque sicuramente è un tema attuale, come dire. L'unica cosa positiva che vi posso dire, studiandomi un po' questa questione, è che ho visto che non gli sta riuscendo tanto bene. No. Cioè, ci stanno investendo un botto di soldi, esatto, e ne perdono tantissimi. Allora, vorrei aggiungere allora anche quest'altra cosa, che ne abbiamo parlato prima, i famosi cavi intercontinentali che ci permettono di comunicare. Prima erano un bene dell'umanità, fondamentalmente, cioè sì, le speculazioni capitaliste, chi ci guadagna c'era, però comunque era un bene di tutti, e mo hai visto, no, con tutte le guerre che ci sono, non sono più sicuri, anzi sono stati minati, lo sappiamo, in vari punti, e è pesissima questa cosa, perché è davvero una regressione dell'umanità, oggettivamente. No. Tra l'altro ci stanno scrivendo sul nostro podcast, che bello, ricordiamo, lo guardo anch'io, eccolo, diretta bombat.vado.lit, e ci dicono: finché tu con le branchie, viva, ah, è vero, Steve Zissou, grande. E ci dicono: mando un contributo filmico per esplorare le profondità oceaniche, le avventure acquatiche di Steve Zissou, di Wes Anderson, Il sottomarino e La ciurma più stilosi degli abissi, da vedere assolutamente, un film divertentissimo, straconsigliato, grazie chiunque tu sia. È vero. Mentre stai scrivendo anche un'altra cosa, ci stavo per arrivare, che è La sfera. Era un'altra delle cose che volevo raccontare, perché è anche qui commistione fra oceani e alieni, perché viene dal romanzo di Michael Crichton, e è incentrato su questa spedizione scientifica negli abissi del Pacifico, e l'obiettivo è capire cosa si nasconda all'interno di questa sfera di origine aliena. Quindi molto carina come idea, bellissimo. Il libro bello, il film non l'ho visto sinceramente, quindi non, però mi era capitato, mi era venuto in mente. Sta scrivendo ancora? Sì, si firma La Pimpa. La Pimpa, ah, La Pimpa. Molto bene. E poi che... Allora, potrei andare avanti tanto, tanto, tanto. Tra l'altro, per esempio, ci sono alcune cose interessanti. Il Cold Skin, la creatura di Atlantide, molto bellino, ambientato nel 1914. Un giovane osservatore meteorologico che è stato inviato nel circolo polare artico si imbatte in una serie di misteriose creature anfibie provenienti dal mare. E lui a un certo punto, per andare a capire che roba è, si butta proprio come il con la roba da palombaro, si butta nei ghiacci artici per andare a capire che roba è. Carino, diverso, perché appunto ambientato chissà lassù, e lì ciao, ancora se ne sa ancora meno. Che bello, comunque a me la ecco, posso dire che la tuta da palombaro, c'ho un amore odio, cioè nel senso, sì, mi spaventa, sì, tantissimo, ma mi attrae, ma anche, è una cosa bella, bella, bella. Ci vorrebbe con queste temperature. Sì, è vero. Concludo questa prima parte con Warlords of Atlantis, dove ci sono uomini con le branchie, qui, diciamo. La trama è classica. Iniziamo inizio XX secolo, i membri di una spedizione marina nell'Oceano Atlantico, dopo una perlustrazione degli abissi, con il battiscafo, si ritrovano in una delle città sommerse di Atlantide. Mostri acquatici che però derivano da dinosauri, quindi non è un'antica civiltà, ma da dinosauri, questi mostri però ci sono anche degli ologrammi, mezzi di trasporto steampunk, è una roba strana, un miscuglio, che se avete voglia di andare a vedere è un bel... Buffo! Molto buffo, molto buffo. Poi si va invece, poi c'è Pacific Rim. Cito Pacific Rim, che fa cagare, per quanto mi riguarda, non mi piace. No, aspetta, no, Pacific Rim no, è bello invece, no, è un altro. Ma sai che c'ho il dubbio? Qual è quello dove c'è Rihanna? Pazzesco. Qual è che Rihanna ci... Tu, pimpa! Tu dici Pacific Rim. No, Pacific Rim è carino, è no, quello non possiamo buttare sui nostri ascoltatori e ascoltatrici. È Battleship quello dove c'è Rihanna, Rihanna, e quello sì che è un film osceno. mentre Pacific Rim, alla fine il primo, è molto bellino. Però perché volevo parlarne? Perché qui si parla di mostri alieni che arrivano da altre dimensioni, ma arrivano sempre tutti dal mare. E sbucano dal mare, come d'altronde Godzilla, no? Non l'abbiamo citato perché ne abbiamo già parlato, ma anche Godzilla è un mostro che arriva dal mare. Certo, è vero. E Pacific Rim riprende un po' questo, cioè l'arrivo di questi mostri enormi dal mare, in realtà arrivanti da altre dimensioni, da un'altra dimensione, che l'umanità deve combattere. E poi appunto c'è la versione pop, ancora più pop, di Battleship, che fa cagare, invece ve lo potete lasciare perdere. Pacific Jim, Rim, leggevo, di Guillermo del Toro, e che sì, che si ispira ai kaiju, come si legge? Sì, sì, è tutto lì, è robottoni contro kaiju, quindi classico Giappone, però americanizzato. Va bene. È americanizzato, per cui poi fai anche gli stereotipi delle altre nazioni, le, certo, grandi nazioni, ci mancherebbe, che sono i giappi, mi sembra siano i tedeschi, e non ci siamo noi italiani, chiaramente. Ma non contiamo un cazzo. Nulla, cioè, nulla. Cioè sì, per fare le macchiette, ma non... Sì, fa un piatto di spaghetti forse, ma perché quello. E quindi ci stava, vediamo se... Oh. Sì, esatto, è esatto, Pimpa. No, Pacific Rim è un capolavoro, sono d'accordo. Vabbè, ma qui c'eravamo confuse un attimo. È Battleship che fa schifo. Ecco, mi raccomando, non facciamo confusione. Ecco. Vorrei citare invece anche, appunto, visto che stiamo parlando di roba nipponica, vorrei citare One Piece, perché c'è un'intera saga di One Piece che è ambientata nell'isola degli uomini pesce, che è un'isola che è in fondo al mare, abitata dagli uomini pesce, che sono proprio un'altra razza, per cui c'è una questione proprio di razzismo fra umani e uomini pesce che sono all'interno di tutta la infinita storia di One Piece. E quindi però ci stava di citarlo, perché un'intera saga vuol dire tanta parte della storia. Ma certo, tra l'altro gli uomini pesce, ora a parte le sirene, però sono uno degli altri miti trasversali che si ritrovano nella storia dell'umanità, insomma, cioè così come abbiamo parlato di varie creature, animali che possono abitare negli abissi, gli uomini pesce anch'essi li ritroviamo un po' ovunque nell'immaginario umano, cioè queste creature strane che sono a metà tra queste due specie, capaci in qualche maniera di adattarsi e di vivere sia qui che lì. Allora, la nostra bimba sta continuando a ci dice che c'è una puntata di BoJack Horseman, la più bella, che io non ho visto, ahimè, che è quella sotto gli abissi. Quindi, interessante, andiamola a ricercarcela perché potrebbe essere... ora me l'andrò a vedere, assolutamente. Guarda, qua te lo dico, gli abissi, come sempre, lo diciamo a ogni puntata, però bisognerebbe aprire un ciclo, cioè tutte certo. Tutte le volte ci diciamo, vabbè, dai, questa si fa veloce, parliamo di tre cazzate, e invece poi si apre un mondo. Qui era un po' intuibile, che parlando degli abissi si apriva un tombino. Si apriva, esatto. Un abisso. Per citare qualcos'altro di famoso, ma sempre ambientato sotto, dobbiamo citare Star Wars, perché nella minaccia fantasma abbiamo cioè un'intera città, no? Dei Gunkan, del popolo di Jar Jar Binks, che abitano là in fondo. Molto bella tutta la parte, poi loro scappano in fondo. Vero. Molto bello, e non solo, c'è poi invece, per esempio, Kamino, che arriverà poi dopo nella guerra dei cloni, dove fanno i cloni, dove i kaminiani creano, sono i grandi clonatori dell'universo, e loro hanno un pianeta completamente ricoperto d'acqua invece. Questo quindi esce un po' dalla cosa. Loro stanno sopra con queste città, in queste mega palafitte. Però è bellino perché per spostarsi hanno questo pianeta, chiaramente essendo tutto acquoso è anche molto piovoso, perché l'acqua poi evapora, esce, ripiove, bla bla bla. E quindi loro hanno questi esseri per muoversi che volano, ma vanno anche sott'acqua. Vedi? Quindi fico. Che bello. Molto fico. Tipo le razze. Sì, una sorta di razza. Una razza e una sorta di draghetto che però va sia sott'acqua che vola in aria. Tra l'altro, ecco, una cosa che non vi abbiamo citato sono appunto proprio le razze, che invece quelle le sappiamo che esistono e che sono gigantesche. Quelle ogni tanto le abbiamo trovate, le abbiamo fotografate, quindi lo sappiamo e sono veramente bellissime da vedere. Quindi io non lo so, che dici? Possiamo liberare le nostre ascoltatrici e noi stesse? No, ho un'ultima cosa. Davvero? Sì, cioè in realtà ci avrei tutto un filone dei videogiochi, perché nel mondo dei videogiochi c'è un'infinità invece sottomarino. È vero, l'ho visti passare parecchi anche nei miei riferimenti. Poi io, come sai, sono abbastanza ignorante in materia di videogiochi, quindi ti lascio la palla completamente. Sì, cercherò di essere breve, perché si è fatta anche una certa. Sarò breve. Però se la pagina decide di andare in giù, allora, mi viene da citare tante cose, il primo di tutto è Bioshock, ne abbiamo già parlato. Bioshock, questa avventura in prima persona molto steampunk che si ambienta in parte, ne abbiamo parlato, sulle nuvole, nella città sulle nuvole, ma la prima parte, i primi capitoli del gioco sono ambientati invece sott'acqua in una città creata da questo illuminato in fondo al mare. Questa città dove poi noi andremo a visitare, che in realtà era idilliaca, ma poi è sprofondata nel disuso, insomma, tante problematiche che, insomma, solo facendo tutto il gioco poi scopri. Però è fantastico perché sei tipo, ci sono questi mostri che sono dentro questi mega tutela palombari, appunto. Cioè la tutela palombaro è un po' il leitmotiv. Non ci sono proprio mostri, ci sono uomini trasformati. O queste bimbe che sono una sorta di fantasmi molto, molto... Che però se le aiuti ti porteranno fortuna, però le puoi anche uccidere se vuoi e otterrai comunque i benefici se le uccidi. È una scelta tua all'interno del gioco. Libero arbitrio. Io ho scelto chiaramente di salvarle tutte e quindi in realtà poi dopo ti dà un upgrade in più. Certo. Se le salvi tutte, però lo scopri solo dopo se le salvi tutte. Vedi. Ci sono tanti giochi, vi dicevo, appunto Bioshock è uno di questi. Viene citato anche Horizon Forbidden West, perché che è il mio gioco preferito, perché il Forbidden West parte è ambientata sott'acqua e vai a visitare quello che era sott'acqua. Horizon è quel videogioco in cui ci sono fondamentalmente i mostri, che sono delle specie di dinosauri ma meccanici. E quindi tu, quando li uccidi, li colpisci, fai cascare i pezzi meccanici da cui puoi costruirti roba per continuare a combattere. Bello. Molto, molto bello. Più che altro la protagonista è scritta da Dio. Bellissimo. Vedi? Bellissimo. Però c'è Abzu, per esempio, invece è un gioco di esplorazione. Abzu, Abzu. Un'esploratrice subacquea in cerca di segni di una misteriosa civiltà si muove nelle profondità del mare. È bello perché te nuoti, è tutto un nuotare, nuoti accanto alle balene, danzi alle meduse. Molto bellino, molto di esplorazione. Che cos'altro potrebbe esserci? Coral, molto bello, altro. Ma però è un puzzle game, quindi non ne parlerò. Vabbè, insomma, mi fermo qua. Però ci sono tanti videogiochi ambientati in fondo, dove ce n'è uno che non mi ricordo come si chiama, dove te sei un naufrago e devi costruire la tua città sott'acqua per sopravvivere. Bello. Sei un naufrago stellare, sei finito dentro un... Ma che sfiga. Sì. E ti costruisci la tua città sott'acqua, quindi però è tutto, cioè devi trovare il pezzo di ferro che ti servirà per fare la maniglia e che ti servirà per tutto così, molto però lungo. Scusami, ora ci hai lasciato un attimo col cos'è un puzzle game? Ce lo devi dire ora. I puzzle game sono dei cioè lo dice il nome, ci sono varie sfumature di puzzle game. Fondamentalmente un puzzle game è può essere Tetris anche. Ah, cioè, ah, proprio letteralmente puzzle game. Esatto. Ah, non la trama, io ora pensavo tipo alla trama. No, il puzzle game è la... La costruisci, esatto. Fisicamente, ok, visivamente. Quindi di base il puzzle game è quello, oppure può essere il puzzle game un gioco che contiene questa parte di creazione. Ma io mi ero già intrippato a pensare tipo la trama che si dipana a puzzle, vabbè, me lo già... No, quelli esistono, però non sono contorta. I puzzle game, che sono i miei preferiti, quelli che a seconda della scelta che fai, c'è una diramazione diversa della storia. E quindi potresti rigiocare il gioco tante volte perché cambia la storia. A seconda delle tue scelte. Vabbè, basta. Quante se ne imparano alle porte di Tannhäuser? Quante cose. Veramente diamo un servizio alla comunità. Come no. E quindi direi che ringraziamo la Pimpa per i contributi e anche voi altre che ci avete ascoltato stasera. Noi, guarda, ti dirò che se la temperatura restasse questa, potrei azzardare che potremmo tentare anche alla puntata tra 2 settimane. Cioè, io ci sono, vediamo che temperatura fa. Se no, possiamo, tipo, io ho un'altra idea. Inondiamo tutta la regia d'acqua. Bello, come sarebbe? Allora, io non so nuotare, questo potrebbe essere un problema. Vabbè, la facciamo... Cioè, tanto ci abbiamo le branchie. Si è detto. No, cioè, no, ha detto la non credo. No, non lo so. Dice non è vero. Non lo so. Se vuoi però fino a qua, fino al busto. Almeno sì, sì. Quello me l'accollo. Poi basta un materassino. Anche perché il mixer poi sott'acqua forse non la prende bene. Non facciamo credo. Sotto il tavolo, fino a sotto il tavolo. Facciamo a Venezia quando viene, no, inondata. Io l'ho vista quando viene inondata. E se c'è i camerieri, poracci, con l'acqua fino al ginocchio a servire. Così. Infatti questa è una puntata che vi abbiamo potuto fare in allegria d'estate. D'autunno non scherziamo su queste cose. Invece d'estate ce l'accogliamo. Quindi vi salutiamo, vi ringraziamo di essere state con noi. Vi diamo appuntamento tra 15 giorni, si spera. Oh yeah! Ciao ciao! Buon batti! Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare e ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica.